L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'altro pianeta in cui toccheremo vari argomenti e anche vari paesi. Iniziamo da un incontro che si è tenuto a Bruxelles questa settimana in cui si è parlato di economia circolare. Presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles, infatti, alcuni parlamentari e cosiddetti stakeholders, quindi i portatori di interesse, tra cui AICA, che è l'Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, Zero Waste Europe, European Environmental Bureau, hanno organizzato due tavole rotonde con questo focus, appunto, l'economia circolare. Obiettivo: capire, a un mese dalla chiusura della consultazione pubblica sulla strategia per l'economia circolare proposta dalla Commissione, quali sono i risultati. C'era anche un po' d'Italia a questo incontro, anzi una buona fetta di Italia, perché tra l'altro come base per la discussione è stato proiettato un docufilm italiano nato dal libro Meno 100 kg, ricette per la dieta della nostra pattumiera di Roberto Cavallo, che è stato spesso nostro ospite in questa trasmissione. E c'era anche Emanuela Rosio, direttrice responsabile di Envi.info, periodico online di comunicazione ambientale, che oggi è nostra ospite. Benvenuta. Buongiorno. Ti chiediamo un po' di raccontarci com'è stata questa due giorni di Bruxelles, perché i lavori si sono sviluppati, no, su due giorni. L'evento è stato il 21 pomeriggio presso il Parlamento europeo, grazie alla disponibilità che tutti i gruppi parlamentari e soprattutto alcuni europarlamentari italiani ci hanno dato di ospitare questo confronto, che viene a meno di un mese e mezzo dalla pubblicazione del pacchetto sull'economia circolare, che sarà il prossimo 2 dicembre. Ed è un pacchetto che ha avuto una storia un po' travagliata, nel senso che era già stato presentato dalla precedente commissione e poi è stato ritirato con alcune discussioni, perché si supponeva che dietro questo ritiro ci fosse qualche spinta di alcune lobby dell'industria europea. In realtà è stato detto che questo pacchetto è stato ritirato per essere migliorato, quindi il commissario Vella, che è il commissario all'ambiente, ha presentato il lavoro che è stato fatto quest'anno per arrivare a questo, diciamo, miglioramento del pacchetto, e che è stata una grande consultazione di tutti gli stakeholder, quindi sia del settore delle associazioni, ma soprattutto del settore business, quindi dell'industria, che è quella che in realtà si deve riconvertire passando da un processo lineare ad uno circolare. Ti faccio subito una domanda, cioè vi ha convinto questa spiegazione del ritardo per miglioramenti? Allora, ci ha convinto nel senso che effettivamente quello che penso io, come comunque, diciamo, persona che lavora nella comunicazione ambientale, è che per cambiare questo modo di fare, di produrre, è necessario che chi produce sia convinto. Quindi il fatto che si sia fatta questa consultazione è stata utile. Secondo me manca un po' il ritorno, nel senso che adesso uscirà il pacchetto con tutte le indicazioni che sono state raccolte, ma se si fa un processo di economia circolare bisogna anche fare un processo di comunicazione circolare, e quindi deve essere restituito a chi ha partecipato alla consultazione il fatto che il loro ruolo è stato importante, e questa chiusura del ciclo forse non c'è stata, nel senso che uscirà il pacchetto, se lo troveranno, ma non gli sarà detto il vostro ruolo è stato determinante e adesso vi chiediamo di fare quello che ci avete detto che eravate disposti a fare. Quindi questo non è un dettaglio, però, perché in Europa teoricamente c'è molto questa, no, idea della partecipazione, e se poi dopo però non hai un ritorno sulla tua partecipazione non sei tanto invogliato ad andare avanti, magari per altri obiettivi. C'è già stata una grande apertura verso l'informazione, per cui questo processo di consultazione degli stakeholder in realtà è stato un ascolto, quindi la Commissione europea è andata a chiedere a tutti i rappresentanti di tutte le varie categorie quali sono le priorità, cosa vi interessa, e poi ha fatto una sintesi. probabilmente bisogna ancora migliorare in questa chiusura del ciclo, e quindi prima di far uscire il pacchetto sarebbe stato utile fare prima degli eventi di ritorno. Questo evento di Bruxelles è stato probabilmente uno di questi eventi, così come adesso di questo pacchetto se ne discute a Bruxelles. Io mi sono chiesta, ma quando arriverà il pacchetto? I governi nazionali sono preparati ai contenuti di questo pacchetto? Sono stati coinvolti? Saranno coinvolti? Come? Quindi ci sono, secondo me, alcuni processi che vanno chiusi proprio in quest'ottica, che non solo l'economia è circolare, ma anche il processo di comunicativo deve diventare veramente circolare per raggiungere i risultati. E che risposta ti sei data però? I governi saranno pronti o no? Era una domanda retorica? Sì, secondo me no, nel senso che, cioè, è una mia opinione personale, però ritengo che in questo momento questo discorso sull'economia circolare sia un discorso che va ancora molto comunicato sul territorio, a partire da tutti i livelli, quindi a partire dai governi nazionali, dai ministeri che dovranno poi implementarlo, che poi non sono solo quelli dell'ambiente, perché comunque è un processo che parte dalla definizione, per esempio, di target più alti di raccolta differenziata, ma che devono essere propedeutici al recupero di quelle risorse, quindi anche tutta l'industria che sta a valle della raccolta differenziata deve comunque adeguarsi, perché è inutile che noi facciamo dei target di riciclo molto alti se poi in intere regioni non abbiamo le filiere che poi vanno a recuperare questi materiali. Quindi il processo è un po' una rivoluzione copernicana del modo di concepire proprio l'industria, che quindi deve arrivare non solo a chi si occupa di fare di recepire la direttiva e quindi di fare le leggi ambientali, ma deve arrivare molto in profondità sul territorio di tutti i paesi partner. Pensiamo all'Italia, certo, ad esempio ci sono dei divari profondissimi tra regione e regione, tra capacità appunto di cogliere l'importanza di un'economia circolare, che forse dobbiamo ricordare che cos'è, però, Emanuela, perché non l'abbiamo ancora detto, e non è appunto proprio perché è un tema che per ora è stato confinato in alcuni pochissimi ambiti, non è un tema di grande diffusione, diciamo. Sì, l'economia circolare è un po' una questione, diciamo, che in modo molto semplice si può dire il buon senso, quindi se un processo è efficiente non deve avere scarti, quindi tutto ciò che diventa scarto di un processo può diventare o input di un altro processo, ma non deve mai uscire dal ciclo produttivo. Quindi tutto quello che noi scartiamo e che adesso chiamiamo rifiuto in realtà è una risorsa, cioè tutto, anche quello che nelle nostre case, dagli scarti organici ai giornali, alle confezioni di carta, e sono tutti materiali che hanno un valore, alcuni molto alto. Per esempio pensiamo ai metalli, all'alluminio, che è riciclabile infinite volte, altri sono come la carta, riciclabili n volte, ma noi abbiamo esperienze in cui ci sono aziende che producono solo utilizzando carta da macero piuttosto che vetro da raccolta differenziata o alluminio e banda stagnata che raccolta negli ecocentri o nelle case dei cittadini. E questo è quello che noi abbiamo, perché c'è un esempio che mi aveva particolarmente colpito, che avevo parlato con una persona che si occupa di tessuti e di alta moda, che mi diceva: in Italia in questo momento l'unico filato prodotto sul territorio è quello che deriva dalle bottiglie di PET, perché sì, noi non abbiamo filatura, il cotone lo importiamo da chissà quale regione lontana, certo. Sì, regione lontana, per cui il made in Italy in questo momento è quello, cioè la bottiglia che contiene il nostro vino più pregiato, che può essere il Barolo o qualsiasi altro prodotto di alta qualità, è una bottiglia che è fatta di vetro che arriva dalle campane, che noi separiamo, quindi ho il contenitore di carta che imballa la pasta di Gragnano, in cui ho fatto cenno a Bruxelles, è un contenitore che deriva dalla carta da macero che raccolgono in Campania. Per concludere, nel tuo intervento hai fatto l'esempio della pasta di Gragnano e che altri così? Ho fatto un esempio concreto che è legato ad un progetto che si chiama 100% Campania, che è nato nei periodi dell'emergenza di Napoli, in cui un distretto cartario, che è quello di Salerno, ha detto: se voi ci portate la carta da macero di tutta la campagna, noi la trasformiamo in cartone che serve per imballare poi i prodotti dell'eccellenza italiana. Quindi la pasta di Gragnano esce con un doppio imballo, di cui il secondo è sempre di cartone, e questo secondo imballo è fatto con la carta da macero della raccolta differenziata. Cosa che in Campania, per esempio, in quel momento mancava, perché loro sarebbero in grado di ricevere di più. Ed è anche un discorso di territorio, nel senso che la carta della raccolta differenziata deve stare vicina, cioè non deve fare dei viaggi e finire in un container che finisce in Cina, perché a quel punto fare la raccolta differenziata perde molto del suo senso, perché non entra in una logica di economia circolare. Ci fermiamo qui, grazie ad Emanuela Rosio, direttrice responsabile, ricordo, di envi.info, periodico online di comunicazione ambientale. Ci ritroviamo tra poco per parlare di strategie per contrastare i cambiamenti climatici in Emilia-Romagna e di start-up alimentari russe. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini, non perdiamo tempo, entriamo subito in medias res. Abbiamo due interviste da presentarvi. Arrivano dall'Expo, dove, come si sa, chi cerca trova notizie. E la prima è il progetto Climate Changer, dove ER finale sta per Emilia Romagna, cioè la regione che porta avanti questo progetto cofinanziato dall'Unione Europea con lo strumento Life Plus. Simona Caselli è l'assessora all'agricoltura, caccia e pesca della regione Emilia-Romagna, intervistata da Alessandra Tedesco. Noi stiamo cercando di impegnarci per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati per il 2020. Naturalmente adesso ci sarà tra poco a Parigi di nuovo una riunione dei paesi principali del mondo per cercare di darsi degli ulteriori obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera e di miglioramento delle situazioni climatiche. Perché purtroppo li vediamo, insomma, gli effetti del cambiamento climatico, che temo, nonostante tutti questi sforzi, ci accompagneranno per un po'. Il Climate Changer è un programma che all'interno dei programmi LIFE dell'Unione Europea noi abbiamo sviluppato e siamo, diciamo, uno dei piloti in Italia, per cui oggi ne approfittiamo qui all'Expo per presentarlo anche alla stampa internazionale, proprio perché è un'esperienza tra le prime. Ed è un'esperienza che ci dovrebbe portare a ridurre di 200.000 tonnellate le emissioni di CO2 e di anidride carbonica in atmosfera. In quanto tempo? In un tempo relativamente breve, in realtà, perché il punto è che bisogna utilizzare delle tecniche agricole diverse. Adesso noi abbiamo 50 imprese agricole che sperimentalmente hanno utilizzato questi nuovi metodi, che sono di agricoltura conservativa o comunque tecniche che consentono di risparmiare fertilizzanti, di risparmiare acqua e di avere un basso impatto di emissione, e oltretutto anche di riutilizzare una parte dei liquami prodotti dagli animali con delle immissioni in profondità nel suolo per arricchire la sostanza organica nel suolo senza rilasciare in atmosfera. Quindi, insomma, inserendo i liquami degli animali all'interno del terreno si riduce l'emissione, appunto, di inquinamento. Si riduce e si migliora la qualità del terreno, ma questa è solo una delle cose che faremo, perché in realtà la parte di agricoltura conservativa passa da metodi di coltivazione proprio a minore impatto, con delle prove in campo, ad alcune ho assistito anch'io, è veramente molto interessante il risultato che si può ottenere, l'utilizzo di tecniche nuove di agricoltura di precisione, la cosiddetta agricoltura blu, che lavora proprio sui suoli in modo diverso, e riducendo anche l'utilizzo d'acqua, perché questo è l'altro tema fondamentale che impatta col cambiamento climatico. Anche qui all'Expo siamo circondati in vari padiglioni da tecniche di risparmio dell'acqua, che ovviamente sono diverse a seconda della località, però tutti sappiamo che quello sarà uno dei nodi cruciali. È chiaro che se questa cosa avrà una sua, un suo successo, come io auspico e come questi primi mesi di sperimentazione ci stanno dando, potremo dare un buon esempio e naturalmente ampliarla a molte imprese in Emilia Romagna. Tenga conto che alla fine qui sono coinvolte anche imprese poi della trasformazione e anche dei consumatori. Qui abbiamo la Barilla e Unipeg, per esempio, che sono imprese molto importanti coinvolte in questo, Granarol, e alla fine il Coop Italia, perché c'è una sensibilità anche dei consumatori sul fatto che qui si dovrà produrre di più, però in maniera sostenibile, e nello stesso tempo avendo dei suoli che, ahimè, in Italia sono pochi e che insomma rischiano di impoverirsi anche dal punto di vista della sostanza organica. Quindi c'è un interesse a tenere assieme il lato produttivo e il lato anche sociale, perché la sostenibilità deve essere anche sociale, di tutto il sistema. Questo insieme, diciamo, di questo progetto è stato applicato in una cinquantina di aziende, appunto, dell'Emilia Romagna da alcuni mesi. Che tipo di risultati avete già ottenuto nella riduzione delle emissioni? Hanno già avuto una riduzione tra il 20 e il 25%, questa l'abbiamo misurato ovviamente perché è parte dei rendiconti del progetto e quindi il dato è molto incoraggiante. Poi le dirò che al di là di questo, già quest'anno in alcune colture, penso al pomodoro, sono state introdotte, diciamo, delle varietà più resistenti ai fenomeni estremi. Ad esempio nella parte del Ferrarese e del Ravennate, dove c'è stata una pioggia molto intensa a maggio che rischiava di danneggiare i raccolti, hanno stimato che se non avessero usato queste nuove varietà il danno ai raccolti poteva arrivare al 50%, mentre è stato contenuto al 20%. Nel resto dell'Emilia Romagna invece è andata molto bene, per cui l'esito finale è che si farà la produzione, però già questo ci dice che ci vuole una gestione attiva di questi elementi se vogliamo evitare che l'agricoltura subisca dei danni da questi effetti climatici. Questo è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea. Oltre all'Emilia Romagna, chi altro ci sta lavorando? Vi state, ecco, confrontando sui risultati e sull'andamento, sì, della sperimentazione? Noi oggi qui avremo dei giornalisti di molti paesi europei. In realtà stamattina nel gruppo tematico che si è riunito abbiamo dei ricercatori di Wageningen, che è la famosa università olandese. Stiamo insomma verificando con i tedeschi e confrontandoci con i francesi. E qui noi abbiamo questo progetto che in parte poi arriverà a coinvolgere anche altre regioni del nord con le quali abbiamo un progetto peraltro specifico sul suolo. Però insomma su questo progetto l'Emilia Romagna è l'unica in Italia. Sì, noi siamo il pilota nazionale, quindi è chiaro che abbiamo una responsabilità in più ed è anche per questa ragione che ci teniamo a rendicontarlo, no? Far vedere come sta avanzando, perché i risultati che ci dà sono incoraggianti, cioè si può veramente fare. Io anche da quello che ho visto a questo Expo considero che ormai l'innovazione in agricoltura sarà probabilmente potentissima nei prossimi 2-3 anni e che bisogna seguirla, proprio perché se non la gestiamo attivamente questa transizione rischiamo effettivamente che alcuni fenomeni estremi che purtroppo continuiamo a vedere arrivino veramente a intaccare troppo i risultati delle nostre produzioni. Che ha intervistato Simona Caselli, assessora all'agricoltura, caccia e pesca della regione Emilia-Romagna. E andiamo a questo punto al secondo progetto che abbiamo scoperto in Expo. È un progetto per sostenere start-up culinarie, nato a Mosca, per rilanciare l'agricoltura e la cucina russe. Questo incubatore d'impresa si chiama Mabius. Uno dei due ideatori è Ivan Sidorok, più sul fronte manageriale, l'altro è Andrei Rifkin, uno chef con molti anni di esperienza all'estero, in particolare a Londra, lo sentirete dall'accento. E proprio Rifkin abbiamo raggiunto per farci spiegare il perché di questa iniziativa e ovviamente come sta andando. It is indeed. So basically, first of all, we are a culinary startup. È davvero un tipo di startup innovativa. È un progetto internazionale che ha base a Mosca, con una sede a Riga e tra poco un'altra in Cina. Vogliamo collaborare con nuove imprese del settore alimentare. Prendiamo in considerazione startup del settore agricolo e alimentare per farle crescere e consentire loro di commercializzare i loro prodotti in Russia e Cina, utilizzando tecnologie e conoscenze europee. In Russia ci è chiaro che è tempo di investire in tecnologia europea. La Russia ha un grande mercato, ma la Cina ha un mercato immenso. Dobbiamo imparare a sfruttare le nostre risorse e la nostra manodopera per rifornire un giorno il mercato cinese, dove c'è una richiesta crescente. Con quali criteri selezionate queste start-up? Abbiamo alcuni partner strategici, come NMGK, che è un'azienda specializzata in salse e prodotti a base di oli vegetali. Quindi abbiamo principalmente guardato a prodotti come le salse o i dolci, o anche la produzione di formaggi e di pane. In realtà guardiamo un po' a tutti i campi. In questo momento in Russia c'è assai poca produzione domestica perché c'è sempre stata molta importazione. Ecco perché è il momento di produrre in Russia. Quanto hanno pesato le sanzioni in questa vostra scelta di avviare Mabius? Per noi le sanzioni oggi ci sono e domani chissà, magari no. Quel che conta è che la Russia in passato è sempre stata autosufficiente, ricca di colture e di alimenti. Oggi è anche ricca di proprietà intellettuali. Mettiamo da parte le sanzioni che appunto oggi ci sono e domani speriamo di no. Il nostro obiettivo è produrre di più e con più varietà in Russia, su terra russa e con forza lavoro russa. Questo è un obiettivo di lungo termine, per il quale le sanzioni sono irrilevanti. Certo, è più facile ragionare su questi temi adesso, quando i supermercati sono più vuoti di prima, privi dei prodotti stranieri. Ma come dicevo, il nostro obiettivo è nel lungo periodo di riportare la Russia a produrre come in passato. Questo programma con il quale lei sta parlando si chiama L'altro pianeta, intendendo il pianeta della sostenibilità, del rispetto per l'ambiente. Quanto conta la sostenibilità nei progetti di start-up che avete valutato e che state considerando? Uno dei criteri è senz'altro questo. La situazione in Russia è terribile, dopo gli anni dell'Unione Sovietica e quelli appena successivi. Per noi è fondamentale che ciò che produrremo sia naturale, a basso impatto e sia fatto da persone che abbiano a cuore la protezione dell'ambiente. Anche in questo campo sarà fondamentale l'esperienza dell'Europa, che è indubbiamente la più attenta. E lo è ancor più l'Italia, con la sua esperienza delle produzioni locali, dei menù a chilometro zero. Non cerchiamo di far nascere un'altra Coca-Cola, un'altra grande azienda. Puntiamo alle piccole aziende. Vogliamo dar loro gli strumenti per crescere. Ci fermiamo qui a questo punto. Grazie da Laura Bettini per essere stati con noi. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus.